Supposte cause di bassi salari, domanda e offerta. Qual è ora la causa di codesta inferiorità dei salari femminili? L'economia politica risponde che la causa più generale che determina i salari è la legge della concorrenza, ossia della domanda e offerta, perché il lavoro umano è anch'esso una merce che si vende sul mercato come tutte le altre. Se non che, con questo criterio, si potrebbero spiegare i salari femminili così bassi in confronto ai maschili se appunto oggidì il lavoro femminile fosse più offerto e meno ricercato. Ma abbiamo visto che le donne oggi sono ammesse nell'industria al pari, se non anche più degli operai. Bisogna dunque cercare altrove. Minore produttività. Primo, si dirà minor forza produttiva. Sì, sarebbe questa una causa dei minori salari se fossimo ancora ai tempi in cui la forza muscolare era uno dei fattori prevalenti nella produzione. Ma oggimai non è più così. Oggi, salvo in certe sfere molto limitate come il facchinaggio, l'arte del barcaiolo e simili, la macchina ha sostituito il muscolo. Oggi quel che si chiede a un buon operaio non è più la valida muscolatura, ma la sorveglianza continua, l'attenzione sempre desta, abilità, pazienza, destrezza, tutte doti che nessuno negherà alla donna, nelle quali anzi vince spesso il suo competitore. Nella contea di York, dove è in vigore l'industria della lana, una di quelle che un tempo richiedevano molta forza fisica, esisteva questo proverbio: il lavoro della lana vuol dell'uomo la mano. Orbene, oggi questo proverbio si è invertito. Leroy Beaulieu sentì da un grande industriale esservi molte donne che attendono contemporaneamente a due o tre telai e non un solo uomo che sappia fare altrettanto. E là dove il lavoro è a cottimo, la moglie e le figlie spesse volte portano in casa più guadagni del padre e dei fratelli. Aggiungete ancora che dove lavorano le sole donne, la giornata di lavoro è molto più lunga. Da un rapporto fatto dal senatore Paris al Senato di Francia del 1881 risulterebbe che la durata del lavoro delle donne in Francia è in media di 15 ore e mezza. E voi sapete come sia lunga la giornata di lavoro delle vostre setaiole, mondatrici di risaie e così via. Non è dunque la minore produttività della donna che può spiegare l'inferiorità dei salari. Minori bisogni. Secondo, dicono poi che le donne hanno minori bisogni. E chi determina cotesti bisogni? Prima di tutto, i bisogni non sono una quantità costante. Chi vive di acqua e polenta con tutti gli orrori della pellagra, certo ha minori bisogni dell'operaio di Parigi, per esempio, che mangia carne e beve vino ogni giorno. Del resto, la donna ha da vestirsi, pagare l'affitto, il lume, la lavandaia, precisamente come l'uomo. Rimane la differenza nel vitto. Ma se la donna esegue lavori uguali a quelli dell'uomo, consumerà anche forze uguali, anzi, ne consumerà di più, essendo più debole. E quindi dovrebbe nutrirsi di più e non meno dell'uomo. Il suo salario per questo riguardo dovrebbe essere superiore o almeno uguale. Le cause vere, disunione e ossequio. Eliminate coteste due grandi obiezioni che si fanno dagli economisti e dai non economisti per giustificare il vergognoso sfruttamento del lavoro femminile, accennerò ad altre cause che sono, mi pare, la origine vera di cotesta grande ingiustizia. Le donne non sono affatto coalizzate, non presentano resistenza al capitale sfruttatore ed è ben raro che si servano dell'arma temibile dello sciopero. La donna è ossequiente alla tradizione, più ligia dell'uomo all'autorità, alla routine, la domina dappertutto ed è anche più ignorante. Qui in Italia le donne analfabete, secondo l'ultimo censimento, sono il 73,51%, gli uomini analfabeti il 61,03%. È vero che nell'analfabetismo anche il sesso forte non è molto più forte dell'altro. Per tutte coteste virtù femminili, l'obbedienza, la coscienza meno viva della propria personalità, la rassegnazione, la pazienza, oh, di questa le donne ne hanno fin troppa. Il capitalista preferisce la donna operaia perché è strumento più sfruttabile dell'uomo. Si identifica con più facilità con la macchina produttrice, diventando anch'essa una macchina lavoratrice. Come ho già detto, i secoli di servilismo e di sottomissione della donna all'autorità maschile non hanno lasciato sviluppare in essa il carattere vero, che consiste nella potenzialità dell'agire e del reagire. È un salario complementare. Finalmente mi possono dire che il salario della donna è minore perché non serve che a completare quello dell'uomo. Questa pare sia anche l'opinione di tutti gli economisti, perché invano si cercherebbe nelle loro opere voluminose una parola, un cenno sul salario delle donne. Si parla del salario familiare, dell'uomo che deve guadagnare non meno di un tanto per mantenere moglie e figlioli, ma della moglie, lavoratrice anch'essa, non si parla. Come se fosse un fenomeno eccezionale di cui non mette conto occuparsi. La donna, insomma, è considerata come un'appendice dell'uomo. Non come una persona a sé che abbia diritto al lavoro e a vivere lavorando. La legge del costume. Ciò che dunque principalmente determina l'inferiorità della mercé della donna non è tanto una legge strettamente e propriamente economica, quanto questo assieme di concetti e di tradizioni, questa che chiamerei volentieri la legge del costume. Quella stessa legge del costume che concorre pure, sebbene con minor forza, a determinare e a tenere stazionari i salari maschili. Così, nei paesi soprattutto agricoli, certi salari, dal Medioevo sino all'epoca nostra, si mantennero allo stesso livello, nonostante tutte le vicissitudini dei progressi moderni. Tali in Toscana, per esempio, i famosi dupaoli, circa una lira, che si danno da tempo immemorabile ai braccianti per mercede giornaliera, alla quale, buone o cattive, volgano le annate, infieriscano più o meno la grandine l'esattore, nessuno oserebbe toccare. Or, è questa legge del costume che da che mondo è mondo sanzionò il privilegio maschile, è questa legge inesorabile che pesa soprattutto sulle iniquità della retribuzione della donna. L'insegnante. L'altra carriera, la più accessibile alla donna e che meno le si contesta, è quella dell'insegnamento. La donna insegna non solo nei giardini d'infanzia, nelle scuole elementari, normali e professionali, ma anche quelle materie che conducono ai più alti gradi della scienza, come in America. Nello stato di New York vi sono 19.400 istitutrici di fronte a 8.000 istitutori. È stata sentita un'istitutrice tradurre Senofonte e spiegare la geometria. In altri stati americani si trova su per giù lo stesso. Per una meravigliosa trasformazione, quasi tutto il sistema dell'istruzione pubblica in America venne a poco a trovarsi in mano alla donna, che pure per tanti secoli fu tenuta come straniera alla scienza. Una statistica recentissima del 1889 ci dà in Francia un numero di insegnanti di circa 100.000, diviso quasi a giusta metà fra uomini e donne. Per il resto d'Europa mi mancano dati precisi, ma so che in Russia quasi tutta l'istruzione elementare dei ginnasi femminili è in mano alle donne. Anche in Italia pare che il numero delle professore, maestre e maestrine cresca ogni anno assai di più delle scuole, con grande allarme dei genitori che hanno figlie fra le concorrenti. Stipendi delle insegnanti. E come sono retribuite le donne insegnanti? Si intende bene che ad eguali doveri hanno minori diritti dell'uomo. Basti dire che in America un maestro riceve 3.000 dollari e una maestra 1.900, oltre un terzo di meno. E questo è in America, dove la donna, sin dall'infanzia, studia sulla stessa panca coi ragazzi, dove la donna, con la propria attività, si è già conquistata un posto incontestabile dappertutto, dove le donne sono più rispettate e sono anche in numero minore degli uomini. Figuratevi poi nella nostra vecchia Europa quanto meno viene retribuita la donna maestra. Eppure i posti se li conquista per concorso, vi è anche preferita, e i rapporti riboccano di elogi all'indirizzo delle donne nell'insegnamento. Qui, come per l'operaia, la causa vera sta nel costume. L'uomo ha il privilegio di essere maschio, la donna ha la sfortuna di portare gonnelle. Le donne impiegate e commercianti. Le note diventerebbero ancora più lamentose se dovessimo gettare uno sguardo anche superficiale sull'innumerevole esercito delle donne impiegate nel commercio, come lavoranti nelle confezioni o come contabili. La povera vita della commessa impiegata allo smercio dei prodotti fu già illustrata d'abbondanza dalla letteratura e dalla statistica. Abbiamo statistiche eloquentissime relative a Parigi e a Londra sui guadagni derisori di coteste disgraziate fanciulle che pure, oltre a un lavoro esauriente, sono obbligate al pari e più dei commessi, pagati circa al doppio di loro, a fare quello che si dice buona figura, ossia a figurar bene nel vestiario e nella persona, poiché poiché anche questo è uno dei requisiti del mestiere, quando pure non si pretende che siano veramente belle. Immaginate come se la cavano queste infelici, il cui stipendio, detratti i giorni festivi e i giorni possibili di malattia, a malapena raggiungerà 600 lire all'anno. Questa somma, come aggiunta al guadagno del marito, può portare un po' d'agio nella famiglia, ma per una donna sola, ragazza o vedova, che deve bastare a se stessa, immaginate quanti sforzi, quante privazioni impongono finanze così limitate. E se la donna ha ancora un figlio da mantenere, allora abbiamo la vera miseria, il ricorso alla congregazione di carità, alla prostituzione o sofferenze inaudite. Il peggio è che lo Stato sembra incoraggiare i privati nell'ingiusto, odioso, vergognoso sfruttamento della donna. Le impiegate al telegrafo, al telefono, alle ferrovie, nelle manifatture dei tabacchi sono tutte regolarmente retribuite meno degli uomini, mentre esercitano funzioni identiche con uguale capacità e abilità. Sembrerebbe quasi che anche il lavoro abbia sesso e si trasformi per il solo fatto che è una donna che lo esegue. Forse che la donna commerciante non affronta come l'uomo tutti i pericoli e le difficoltà del commercio? Forse che paga meno tasse o che ha minore responsabilità se fa bancarotta? Eppure nelle camere di commercio essa non ha voce. E quando in Francia nella penultima legislatura fu agitata nelle Camere legislative la proposta di concedere alle commercianti il diritto di eleggere i propri giudici nei tribunali di commercio, indovinate voi a chi si rivolse il ministro Tirard per avere un avviso in proposito. Niente altro che alle Camere di commercio, cioè agli uomini che le compongono. Questa consultazione è veramente qualcosa di comico. Tanto varrebbe domandare al Papa la sua opinione sul diritto dei liberi pensatori. Non occorre aggiungere quale fu la risposta e come la legge abbia naufragato. Ma che importava al signor Tirard di sapere il parere delle donne commercianti sulla convenienza che quando hanno conflitti con i loro concorrenti i loro interessi si trovino in mano di giudici eletti dai loro avversari? Ciò del resto non recherà nessuna meraviglia se si porrà a mente che i governi difendono sempre e dappertutto il monopolio e il privilegio. E non poteva esservi eccezione per il monopolio dell'uomo commerciante. La donna professionista. Tuttavia, si deve confessare che questo stato di cose comincia ad essere scosso nei paesi più incivili. Il principio ad eguale lavoro, eguale retribuzione si fa sempre più strada nell'opinione pubblica. In Francia fu recentemente proposto l'aumento dei salari delle donne impiegate nelle poste e nei telegrafi. In Danimarca il governo stesso propone il pareggiamento dei salari. A Londra, a Bruxelles, a Parigi si fondano borse del lavoro femminile per la difesa del lavoro delle lavoratrici. E l'avere ormai le donne acquistato il diritto di essere elette e l'esserlo talune state realmente nei consigli dipartimentali e anche nei consigli superiori della pubblica istruzione, come di recente in Francia, in Svezia e in Norvegia, mentre è un segno dei tempi, è pure una garanzia che anche al lavoro delle insegnanti presto sarà resa un po' di giustizia. Lo stesso non può dirsi finora per la donna nelle professioni cosiddette liberali, cioè per la donna medico, avvocato, dottore in scienze o letterata. Qui l'uomo borghese è doppiamente monopolista, o come sesso e come appartenente alla classe dominante, e si vale di tutti i mezzi per demolire la sua concorrente. Esso mette in gioco tanti artifici, tanti cavilli, si appella alle differenze intellettuali, a scapito, si intende, della donna, alla frivolezza e vanità che non le permettono di applicarsi con costanza e assiduità a lavori intellettuali seri, ma soprattutto grida all'allarme perché così si distrugge la famiglia, si perdono la femminilità e la grazia, insomma, chi più ne ha, più ne mette. Cominciando dai pastori e dai preti, per finire con Bischoff, Waldheyer, Charcot e altri scienziati, tutti si danno la mano per mettere un argine all'invasione della donna borghese nel campo intellettuale della lotta per l'esistenza. Obiezioni. Vediamo un po' che cosa vi ha di serio in tutte queste obiezioni. Quanto alle differenze intellettuali, quale dei fisiologi e psicologi moderni potrebbe sul serio basarsi sui dati del volume del cervello? Chi non sa che il volume del cervello è così vario anche fra gli uomini di grande ingegno? Il Cuvier, per esempio, abbia un cervello di 1861 grammi e Hausmann invece di non oltre 1226, precisamente come la media del volume cerebrale della donna. Chi non sa che piccoli animali come le api e le formiche, con una goccia di massa cerebrale, sono intellettualmente superiori alle capre e alle giovenche, per esempio? Che si sa sulla struttura finissima del cervello. E se anche il microscopio ci avesse fornito le minimissime differenze istologiche fra il cervello dell'uomo e quello della donna, rimarrebbero ancora tanti coefficienti extra-microscopici, come la composizione molecolare, il movimento molecolare dei tessuti nervosi, il chimismo cerebrale, eccetera, che non permetterebbero a un vero scienziato di pronunciare in buona fede la condanna del sesso debole per la sua debolezza intellettuale. Ma le donne, pur studiando, che cosa hanno scoperto? Che invenzioni hanno aggiunto al capitale scientifico dell'umanità? Con queste domande credono demolirci o avvilirci. Ma come pretendere che le donne, le quali non studiano che da poco tempo, diventino addirittura tanti Newton o tanti Copernico? Anzi, c'è da fare le meraviglie di quello che esse in così breve tempo hanno fatto. E poi il cervello, come ogni altro organo, è atto allo sviluppo. Concedo che oggi il cervello medio della donna possa essere inferiore a quello dell'uomo, poiché è l'organo che finora in ella ha meno funzionato. Abbiamo anche visto che le donne, pur avendo una muscolatura più sottile e debole di quella dell'uomo, si sono presentate in squadre di pompiere all'esposizione di Parigi. E non cedevano agli uomini né in forza né in destrezza. Certo, i loro muscoli si saranno sviluppati come quelli dell'uomo. E infatti, nei paesi dove le donne non cedono gran fatto nello sviluppo intellettuale agli uomini, come in Inghilterra, in Francia e in Svezia, Büchner trovò differenze minime fra il volume del cervello dei due sessi. Soprattutto la differenza è minima in Francia. Non sarà già che gli uomini francesi si siano imbecilliti. Ciò contraddirebbe del tutto la storia moderna che ci presenta in quest'ultimo secolo la Francia come faro della civiltà moderna. Del resto, questa è ormai una questione così esaurita e poco seria che non voglio tediarvi più a lungo con tutto ciò che in vario senso se ne è detto. Citerò solo Otto Pinault, discepolo di Broca, fondatore della scuola antropologica, che si esprime così. Non va differenza di sesso quanto allo sviluppo cerebrale. E si potrebbe persino sostenere, tenuto conto di quello che l'anatomia comparata dà come il vero progresso nella morfologia dell'encefalo, che nell'evoluzione cerebrale la donna è più avanzata dell'uomo. Le altre obiezioni meritano ancora meno di essere confutate. La frivolezza, la vanità femminile, ma non trovano esse un riscontro nel sesso maschile? Io non vedo davvero gran differenza fra il desiderio femminile di ornarsi di una piuma, di un nastro o di qualche fronzolo e la smania di tanti uomini borghesi di ottenere una croce, una commenda o qualche altra chincaglieria di decorazione artificiale. Si perde la grazia, la femminilità? Se queste due parole dissimulano l'ignoranza, debbo convenire che la grazia infatti si perde, ma non so perché una bella e gentile signorina debba perdere in bellezza se nei suoi occhi brilla anche una delle più grandi bellezze, qual è il pensiero. Ma la donna studiosa è così pedante, piena di pretese, di presunzione, diventa insomma, bableu, dicono gli uomini, barbosa. Ammetto che qualche volta, soprattutto fra le prime donne che studiano, si incontrano delle pedanti, appunto perché lo studio non è ancora diffuso fra le donne. Là dove la donna borghese è già da tempo pari intellettualmente all'uomo borghese, l'istruzione superiore non la fa inorgoglire più del saper leggere e scrivere. Le ragazze americane sono le più deliziose di questo mondo e le ragazze russe conservano tutta la loro semplicità, non so se malgrado lo studio o mercé lo studio. Del resto non voglio indugiarmi più oltre sovra obiezioni che considero poco serie, e quanto alla distruzione della famiglia mi riservo di parlarne per ultimo. E poi, come già dissi, non faccio questione di superiorità o inferiorità della donna. Le polemiche su questo terreno furono già fatte e con tutto il possibile brio da molte donne valentissime. Che cosa si potrebbe dire di più e più brillantemente di ciò che scrisse Jenny Dericourt nella sua Femme affranchie, rispondendo a Proudhon, accanito accusatore del sesso femminile? Tutto muta col tempo. Il repubblicano e il monarchico del giorno d'oggi non sono più quelli del 48. Le argomentazioni in favore della donna hanno cambiato anch'esse natura. La polemica su questo terreno ha fatto il suo tempo. Se anche si citasse un numero infinito di donne che si distinsero e sui troni e nelle scienze e nella letteratura, non si caverebbe un ragno dal buco. La Somerville, la George Sand, la George Eliot, le Elisabette regine sono eccezioni, mi diranno. E anch'io amo meglio parlare della gran massa inosservata delle donne, anziché di quelle a cui nessuno nega di aver mostrato un vero ingegno superiore. Non voglio neppure fare confronti fra i due sessi, poiché non posso ammettere che l'uomo sia l'essere ideale della creazione e debba servire da unità di paragone. Il fatto è che la donna non è né superiore né inferiore, è quel che è. E tale qual è, con tutte le sue differenze dall'altro sesso, non va ragione che essa si trovi in condizioni inferiori. Ci sono forse leggi eccezionali per gli uomini di ingegno, gli uomini mediocri e gli uomini cretini? Così dovrebbe essere quanto alla donna di fronte all'uomo, sia ella più o meno colta, più o meno intelligente, più o meno al di qua o al di là della media maschile.